Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. Oggi a Destini incrociati vogliamo sfatare un mito. Per farlo dobbiamo addentrarci nella storia del cinema e nella vita di un attore che ha incantato milioni di spettatori per oltre 60 anni di carriera. Quest'uomo ha impersonato principi e guerriglieri, padri di famiglia e scapoli impenitenti, entrando di diritto nell'Olimpo delle celebrità. Ma l'interpretazione che lo ha fatto passare alla storia è stata una sola, inconfondibile. In quella stessa occasione, una musica insistente, altrettanto inconfondibile, ha investito col suo fascino mediterraneo l'immaginario di mezzo mondo. Andiamo a Creta, sul set del film che è il fulcro della storia che stiamo per raccontarvi. Siamo sulla spiaggia di Stavros, sulla costa settentrionale di Creta, la più grande isola della Grecia. Due uomini stanno danzando sulle note di una musica ritmata e ben riconoscibile. Stanno in piedi l'uno accanto all'altro, tenendosi per le braccia, dondolando all'unisono in segno di forte compartecipazione emotiva, oltre che coreografica. Insegnami a ballare. Vuoi ballare? Hai detto ballare? Forza, mister! La spiaggia di Stavros non è altro che il set di una produzione cinematografica del 1964, intitolata Zorba il Greco. È la storia di un giovane di origini anglo-greche che si trasferisce in un minuscolo villaggio cretese. Durante il viaggio conosce l'uomo di mezza età, bizzarro e vitale, focoso e vagamente pazzo, che dà il titolo al film. Zorba, per l'appunto, ha il volto inconsueto, peculiare e incisivo di un noto caratterista hollywoodiano. Quest'uomo è il nostro primo protagonista di oggi. Il suo nome è Anthony Quinn. Anthony Quinn. Benché divida la scena con il più giovane e certamente attraente Alan Bates, suo coprotagonista, Anthony Quinn sembra essere il padrone incontrastato del set di Zorba il Greco. Le sue rughe, i suoi gesti forti, la sua irruenza sono irresistibili. Dopo una vita di ruoli da comprimario, Quinn sembra aver trovato nel folle e adorabile Zorba il suo riscatto davvero protagonista indiscusso. Ma qual è il percorso di questo attore che all'alba dei 50 anni sembra più scatenato che mai? Per scoprirlo, dobbiamo fare un passo indietro e spostarci di qualche migliaio di miglia, dalla Grecia al Messico, la terra natale di Anthony Quinn. Forse non tutti sanno che Chihuahua non è solo una microscopica razza canina, ma anche una ridente località dell'America centrale. Ed è proprio qui che il 21 aprile del 1915 nasce Anthony Quinn. Il padre è irlandese, la madre messicana. Entrambi sono ribelli coinvolti nella rivoluzione che proprio in quegli anni sta sconvolgendo il Messico nel tentativo di porre fine alla dittatura di Porfirio Diaz. La vita passionaria dei genitori giustifica in buona parte quella che ha tutta l'aria di essere una predisposizione genetica alla vita vissuta fino in fondo. Il carattere di Quinn si è forgiato sull'esempio nobile del padre, che gli ha insegnato a non demordere dinanzi alle difficoltà. E i momenti duri non sono certo mancati nel corso della sua infanzia. Lui stesso li ricorda con vividezza. La cosa terribile della povertà è la mancanza di dignità. Ma mio padre mi ha insegnato questo quando ero molto giovane. Puoi avere carenze, necessità e difficoltà, ma la povertà vera è una questione di spirito. È vero, mi è capitato di non avere da mangiare, ma non ho mai permesso a me stesso di sentirmi povero per questo. Durante i suoi primi anni di vita, il padre di Quinn è assente, impegnato nella lotta che nel 1917 porterà alla Costituzione politica degli Stati Messicani Uniti, la prima Costituzione al mondo a riconoscere garanzie sociali e diritti ai lavoratori di un paese tutt'oggi ancora vigente. Tony è molto piccolo quando il padre, reduce dall'impresa rivoluzionaria, torna dalla sua famiglia. È Daniel Paisner, biografo dell'attore, a parlarcene. Tony ricorda quel giorno come un giorno umido, piovoso. Stava giocando con un trenino di latta, quando vide avvicinarsi una figura. Capì immediatamente che era suo padre, non aveva mai visto una sua foto. L'uomo andò da lui, non disse nulla, e fu Tony a dirgli «Ciao papà». Cessati i moti rivoluzionari, i Quinn si trasferiscono prima a El Paso, Texas, quindi in un sobborgo di Los Angeles, la città degli angeli, la mecca del cinema, in cui Tony è destinato a trovare la sua fortuna. Ma è ancora presto per addentrarci nei meandri della sua fulgida carriera sul grande schermo. Tony è ancora un ragazzo quando perde il padre in un incidente d'auto, evento che lo costringe suo malgrado a rinunciare agli studi e a lavorare per mantenere i familiari, come ricorda il figlio Alex. Mio padre parla spesso dell'impatto che ebbe la morte di suo padre. Lo costrinse a crescere, a diventare un uomo in fretta, a prendersi la responsabilità di essere l'uomo di casa, occuparsi di sua madre e di sua sorella. Insomma, diventò adulto molto prima degli altri ragazzi. Un ragazzo costretto a diventare grande prima del tempo. Un uomo che dalle difficoltà saprà trarre la forza per forgiare il suo carattere, combinandolo con il suo spirito indomito per dare vita a uno dei volti più intriganti di Hollywood. Hollywood, il tempio del cinema, offre al giovane Quinn la possibilità di muovere i suoi primi passi nel mondo del lavoro, ma non davanti alla macchina da presa, come verrebbe naturale pensare. Ce ne parla Audrey Roberts, studiosa ed esperta d'arte. Faceva ritratti sul set. Un giorno Douglas Fairbanks andò da lui e gli disse: «Tony, voglio che tu mi faccia il ritratto». E mi pare che gli diede $25, che per lui era lo stipendio di una settimana di lavoro. Anthony fa un po' di tutto per mantenere se stesso e la famiglia, dal pugile al macellaio, dal venditore porta a porta al ritrattista, come abbiamo appena sentito. La passione per il disegno e per il bello e per l'arte in lui sono innate. È un vero peccato che sia stato costretto ad abbandonare gli studi di architettura per cause di forza maggiore. Il suo amore per il disegno, tuttavia, non resta sopito. Quinn fa di tutto per vincere una borsa di studio che gli permetta di incontrare uno dei più grandi architetti del Novecento, Mr. Frank Lloyd Wright. La determinazione e il talento di Anthony gli fanno ottenere quello che cerca. La borsa di studio è sua. Wright, all'inizio degli anni 30, è già una celebrità. Le sue Prairie Houses, abitazioni unifamiliari sparse in giro per tutta l'America, sono il perfetto esempio che coniuga le esigenze dell'individuo con le peculiarità dello spazio architettonico, in perfetta sintonia con la natura e l'ambiente circostante. La celebre Casa sulla Cascata, punto saliente di qualunque manuale di architettura, viene realizzata a partire dal 1935. Proprio in quegli anni, un giovane Anthony Quinn bazzica nello studio dell'architetto più famoso d'America. Con quella sua aria un po' sbruffona ma sincera, non ci mette molto ad attirare le attenzioni di Mr. Wright, come ricorda il figlio Alex. Frank Lloyd Wright si accorse che mio padre aveva difficoltà a parlare e gli disse: «Ragazzo, adoro i tuoi disegni. Potremmo fare grandi progetti insieme, ma se devi presentarli alla gente, devi imparare a parlare come si deve». La simpatia di Wright per Quinn ricalca in qualche modo il rapporto tra un padre e un figlio, o addirittura un nipote. L'ormai settantenne architetto prende il ventenne Tony sotto la sua ala protettiva, facendo le veci del padre scomparso ormai da tempo. Ed è proprio nello studio di Wright che il destino di Quinn, inaspettatamente, inizia a prendere il suo corso, come ricorda il suo biografo. Il signor Wright lo mandò a lezione di inglese e di dizione. Ci andò apposta per imparare a parlare. Da solo non avrebbe mai potuto permettersi quelle lezioni se Wright non gliele avesse pagate. L'ironia sta nel fatto che la sua voglia di diventare un architetto lo portò a fare l'attore. Durante le lezioni di dizione e recitazione si accorse di avere talento. Così cominciò ad avere piccoli ruoli in piccole produzioni. Iniziò così. Quinn si cimenta sui palcoscenici dei teatri e anche qui sembra che il suo destino sia già scritto. La sua prima volta è legata a una defezione altrui, come lui stesso a ricordare. Un giorno un ragazzo ha mollato la sua parte in una commedia, Hay Fever di Noel Coward. E io ero lì e lo sostituì e quella fu la mia prima parte. E feci oltretutto un'ottima impressione. Non molto tempo fa ho incontrato Coward e gli ho detto grazie perché Hay Fever era stato il mio primo ruolo. Dal teatro al cinema il passo è breve. Nel 1936 Quinn interpreta un nativo americano nel film La conquista del West, diretto da Cecil B. DeMille, uno dei registi più potenti della Hollywood di allora. Cecil B. DeMille's The Plainsman, starring Gene Arthur as Calamity Jane and Gary Cooper as Wild Bill Hickok. Il temperamento focoso e passionale di Quinn non si fa intimidire dalla presenza di star di grido come Gary Cooper, né tantomeno si sottomette alle regole di DeMille, regista che è considerato un'istituzione intoccabile a Hollywood. Dissi a DeMille: questa scena è stupida. E lui chiese perché. E a quell'epoca DeMille era una specie di imperatore. Nessuno osava dire qualcosa del genere, ma io non mi sono mai sentito sottomesso a nessuno. Il battibecco con DeMille diviene leggendario. E ancora una volta il suo biografo Peisner a raccontarci gli sviluppi della vicenda. Disse a DeMille che non aveva bisogno dei suoi dannati $75, che poteva anche riprenderseli e metterseli in quel posto, e fece per andarsene. Ma appena uscito dalla porta, il signor DeMille lo fece richiamare con grande sorpresa di tutti, disse: il ragazzo ha ragione, rifacciamo la scena. La fama del carattere di Tony cominciò a circolare nei corridoi della Paramount e tutti volevano conoscere il giovane coraggioso che aveva avuto il fegato di mettere in discussione DeMille. La carriera cinematografica di Anthony Quinn, insomma, incomincia a delinearsi all'insegna della sua indiscutibile diversità. Sprezzante del pericolo e dell'autorità, è incuriosito dal mondo del cinema come lo era stato da quello dell'arte e dell'architettura, passioni che peraltro non abbandonerà mai. Quinn si colloca nel panorama del cinema hollywoodiano classico come un perfetto outsider, inserito però all'interno del sistema. Ed è proprio qui che risiede la sua forza. Ormai messo sotto contratto dalla Paramount Pictures, Quinn è impiegato soprattutto per interpretare ruoli da cattivo e da straniero. Ed è proprio nell'etimologia di questa parola, straniero, che è racchiuso il senso della scelta dei personaggi che Quinn via via incarna. Straniero, ovvero strano, inusitato, in un certo senso ruvido, brusco, scortese. Le origini meticce di Anthony, nelle cui vene scorre sangue azzeco e irlandese, messicano ed europeo, lo rendono esotico, troppo esotico, per prestare il volto ai protagonisti, lindi e moralmente ineccepibili, che affollano gran parte delle produzioni della Hollywood degli anni della Seconda Grande Guerra. Ancora una volta è il suo biografo a parlarcene. È l'attore delle Nazioni Unite. Può interpretare chiunque, qualunque personaggio che non sia il classico americano. Nella brillante commedia Road to Morocco, ovvero Avventura nel Marocco, Quinn interpreta un crudele sceicco arabo, in ottemperanza alle logiche di casting appena menzionate. We're off on the road to Morocco. This camel is tough on the spine. Un crudele sceicco arabo all'ombra di due star di prim'ordine come Bob Hope e Bing Crosby. Quello di Anthony Quinn sul grande schermo ha tutta l'aria di essere inevitabilmente un destino da comprimario. Quinn di fatto sembra essere sempre costretto a dividere le scene e a fare i conti con nomi più importanti, più altisonanti del suo. Quando all'inizio degli anni 50 ottiene il ruolo di protagonista nella riduzione teatrale del celebre romanzo di Tennessee Williams, un tramma che si chiama Desiderio, è solo per sostituire Marlon Brando, assente giustificato. L'anno seguente Elia Kazan, regista di quella stessa pièce di successo, lo vuole proprio accanto a Brando nel suo film biografico sulla vita di Emiliano Zapata, eroe rivoluzionario messicano. Il ruolo di protagonista, manco a dirlo, è affidato a Brando. A Quinn tocca quello del fratello Eufemio. Ciudad de México, el 1909. Una delegación de indios de la provincia de Morelos llega a la capital para una audiencia con el presidente Porfirio Díaz. L'interpretazione al fianco di Marlon Brando, sotto la guida geniale di Elia Kazan, vale ad Anthony Quinn il premio Oscar come migliore attore non protagonista. Si tratta di un record. Quinn è il primo attore di origini messicane a ottenere l'ambito riconoscimento. La sua bravura è riconosciuta, come testimonia il premio ricevuto. Eppure, Quinn fatica a ritagliarsi uno spazio più ampio, al di fuori del cono d'ombra prodotto dai protagonisti delle grandi produzioni cui partecipa. 2 anni più tardi, infatti, il gigante Marlon Brando lascia il posto a un altro celebre attore hollywoodiano, Kirk Douglas. Il film è Ulisse. E ovviamente a Douglas tocca il ruolo dell'eroe mitico vittima dell'ira degli dèi, mentre a Quinn quello di Antinoo, il più supponente e violento dei proci, odiosi pretendenti al trono di Itaca e al letto di Penelope. Saluti a te, Penelope. La tua bellezza supera ogni fantasia di poeta. Chi sei? Sono Antinoo, dell'isola di Cefalonia. So che l'inganno della tela è stato scoperto, Penelope. Che cosa cerchi nella mia casa? Nel 57 Quinn divide nuovamente il set con Kirk Douglas in occasione di Brama di vivere, film biografico su Vincent van Gogh. Inutile dirvi a chi tocchi la parte del pittore folle e geniale. Vi basti sapere che a Quinn spetta quella di uno dei suoi più cari amici e colleghi, Paul Gauguin. 8 minuti 480 secondi. Questa è la durata complessiva delle apparizioni di Quinn in questa pellicola. 8 minuti che gli valgono ancora una volta un Oscar come migliore attore non protagonista. Questa seconda vittoria sembra essere la consacrazione, l'istituzionalizzazione del suo ruolo subalterno, inferiore rispetto a quello dei grandi protagonisti che lo affiancano. Ma il riscatto non è poi così lontano. Per catapultare Anthony Quinn nell'Olimpo dei Grandi, anziché nel regno degli eterni secondi, basteranno una spiaggia e una canzone, che saranno il teatro e la colonna sonora di un incontro decisamente fortunato. Tra poco, a destini incrociati. I'm better with my muscles than I am with my mouth. I work the fairgrounds in the summer or go pick fruit down south. And when I feel them chilly winds, where the weather goes, I'll follow. Pack up my traveling things, go with the swallows. And I might get lucky now and then. Destini incrociati. A destini incrociati stiamo seguendo la carriera di Anthony Quinn, attore di origini meticce imprigionato in ruoli da cattivo o da comprimario. I 2 premi Oscar vinti nel corso degli anni 50 non sono bastati per consacrarlo nell'Olimpo dei Grandi. Quinn è ancora in cerca di riscatto. Può darsi che l'assidua frequentazione dell'ambiente hollywoodiano, nonostante i premi e le ottime premesse, non gli stia giovando. Meglio spostarsi in Europa, dove la pressione produttiva è più allentata, ed è proprio qui, nel vecchio continente, che Quinn comincia a intravedere la sua fortuna. Già nel corso degli anni 50, Quinn inizia a fare la spola tra Hollywood e l'Europa. Agli studios, spesso e volentieri, conviene girare in location come l'Italia e approfittare dei costi ridotti rispetto a quelli statunitensi. Il 1954 è l'anno della sua memorabile interpretazione del crudele e rozzo saltimbanco Zampano in La strada di Federico Fellini. Quello del rude Zampano è un ruolo duro, difficile. Quinn ricorda con piacere la collaborazione con Fellini. È come se in qualche modo intuisse che sarà da personaggi di questo genere, ovvero da loschi figuri di origine europea, controversi ma infine dotati di un cuore, che passerà la strada del suo riscatto. Mr. Quinn, l'episodio più divertente che lei ricorda del suo rapporto di lavoro e di amicizia con Federico Fellini? Quando mi ha detto di darle più forte con il bastone a sua moglie e le gambe perché si muovesse un po', mi ha detto, io l'ho fatto teneramente, palla, snap, Tony, dalle porte, dalle porte. E invece gli ho dato forte e quello ha ballato. Questo è stato molto divertente. Quinn ricorda divertito la sua esperienza sul set con il grande regista romagnolo e con sua moglie, nonché protagonista femminile del film, Giulietta Masina. Ben presto Tony ha l'occasione di lavorare a fianco di un altro simbolo del cinema italiano. Nel 1957 è accanto ad Anna Magnani in Selvaggio è il vento, del regista newyorkese George Cukor. Le rispettive interpretazioni di Gioia e Gino valgono alla Magnani e a Quinn la nomination all'Oscar come migliori attori protagonisti. Per Quinn si tratta certamente di un salto di qualità, anche se il premio quell'anno se lo aggiudica l'inglese Alec Guinness per Il ponte sul fiume Kwai. Il ruolo del vedovo Gino, convolato a seconde nozze con la Magnani, vale a Quinn la fiducia di registi e produttori, che negli anni seguenti lo vogliono in pellicole di grande impatto, come ad esempio il colossal Lawrence d'Arabia. Sono Auda Abutai. Io so di un altro che aveva questo nome. Un altro? Quale altro? Un altro che non avrebbe certo chiesto aiuto a nessuno per difendere i suoi pozzi. Ah. Allora deve essere un grande eroe. E lo è. E non rifiuterebbe certo l'acqua a gente che ha attraversato il deserto di Nefut. Non la rifiuterebbe? Mm. Allora deve essere di sicuro un altro. Se in Lawrence d'Arabia Quinn è un fiero guerriero beduino, in I cannoni di Navarone interpreta un ex colonnello dell'esercito greco in cerca di vendetta. Allora non sei Andrea Stavrou? Il colonnello Stavrou? Oh, no, no. No, signore, io mi chiamo Salonikos e sono un povero pescatore di Cipro. E perché eri armato di pistola? Perché mi hanno obbligato loro a portarla. Loro ci si divertivano. E dove sono gli esplosivi? Non lo so, glielo giuro, io glielo direi se lo sapesse, ma non me l'hanno detto. E così non si fidano. Il ruolo di Andrea Stavrou, coraggioso soldato di origine greca, spalanca ad Anthony Quinn le porte per la sua successiva interpretazione. Sarà nei panni di un altro greco che l'attore otterrà finalmente la consacrazione internazionale. Zorba, e chi è? Sono io, Alexis Zorba. Ho anche altri nomi, se le interessa. Quali sono? Bisonte, perché dicono che sono grosso. E California, perché sono stato in California. E peste bubonica, perché dove vado io la gente dice che scasso tutto. Salute. Nei panni di Alexis Zorba, protagonista del film Zorba il Greco, Quinn inscena sulla spiaggia di Stavros a Creta una danza che tutto il mondo ricorderà per decenni. Le note sulle quali l'attore di origini messicane balla senza sosta sono quelle del celeberrimo Sirtaki. L'autore di questa melodia è un noto compositore greco, Mikis Theodorakis. Mikis Theodorakis. Il Sirtaki, che ha reso indimenticabili Zorba e il suo interprete, Anthony Quinn, non è, come spesso si crede, una musica tradizionale greca di lontana provenienza e antica origine. Mikis Theodorakis ha composto la melodia appositamente per la colonna sonora del film. Quinn è perfetto nella parte dell'esuberante Zorba. Per realizzare la scena della danza, però, l'attore, praticamente incapace di ballare, ha bisogno di una coreografia su misura per rispettare le esigenze del copione. Ed è qui che entra in gioco Theodorakis. Theodorakis incontra Quinn nel corso di una delle prime riunioni del cast. La missione del musicista, assoldato dai produttori, è quella di dar vita a una danza che esalti le caratteristiche espressive dell'attore e del personaggio che interpreta, mascherando la goffaggine dei suoi movimenti. Theodorakis studia Quinn il suo temperamento, adattandone le caratteristiche alle pieghe della sceneggiatura. L'impresa può sembrare ardua, ma sia Anthony che Mikis sono dei veri professionisti. Il lavoro a stretto contatto con l'attore si unisce all'approfondimento e al recupero delle musiche della tradizione greca. L'unione di questi elementi concorre a creare un successo strepitoso. Il Sirtaki, dunque, diventa col procedere della produzione del film la colonna sonora ideale di un felice incontro artistico. Il suo ritmo intenso e crescente sembra mimare il crescendo del successo cui sono destinati Theodorakis e Queen. Il regista Kakoyannis e il coreografo Provias aggiungono il loro tocco, dando vita a una delle sequenze danzerine più celebri della storia del cinema. Ma il merito in questo caso è di Theodorakis, che appone il sigillo sul successo internazionale di Zorba e addirittura sulla rinascita della musica popolare greca. Ma quali sono le origini di questo geniale compositore? Per scoprirlo, facciamo un passo indietro. Mikis Theodorakis nasce nel 1925 sull'isola di Chio. L'irresistibile attrazione per la musica risale a quando è bambino. Inizia a comporre le sue prime melodie servendosi solo della sua voce, dal momento che non ha a disposizione nessuno strumento musicale. L'interesse per l'espressione artistica, tuttavia, deve fare i conti con la situazione in cui si trovano la Grecia e il mondo intero. Nel 1943, ad appena 18 anni, Theodorakis si trasferisce ad Atene, dove entra nelle file del Greek People's Liberation Army, un gruppo di resistenza all'occupazione nazifascista. Il suo animo focoso e passionale lo spinge ad assecondare i moti che agitano il suo paese. La turbolenta situazione di Atene e dell'Europa in generale, tuttavia, non gli impedisce di frequentare per 7 anni, fino al 1950, il conservatorio della capitale greca. Finiti gli studi, diventa direttore di una prestigiosa scuola di musica cretese e fonda la sua prima orchestra. Ma il destino lo terrà lontano da Creta e dall'amata patria per qualche anno. A metà degli anni 50 è Parigi a volerlo tutto per sé. Gli anni parigini sono un periodo molto fertile dal punto di vista creativo. Scrive la sua prima suite, innumerevoli pezzi per balletti classici e il suo primo concerto per pianoforte. Nel frattempo, Theodorakis inizia a scoprire e ad assecondare un'altra sua vocazione, quella come compositore di colonne sonore. La canzone che scrive per il film Honeymoon, produzione anglo-ispanica del 1959, ha un successo che va ben al di là della pellicola. Il brano viene ripreso da innumerevoli cantanti, tra i quali spiccano senza ombra di dubbio i Beatles. I never knew that a day like today, a day before. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. All'inizio degli anni 60, tuttavia, Theodorakis torna in Grecia alla ricerca delle sue radici. Le composizioni che realizza negli anni a seguire contribuiscono notevolmente al recupero delle tradizioni della sua patria, oltre che alla innegabile rivoluzione culturale in atto in quegli anni. Theodorakis vuole ridare dignità alla musica greca, ed è per questo che sviluppa il concetto di musica metasinfonica, ovvero una melodia che travalichi le regole della musica classica, mescolando elementi sinfonici e canzoni popolari, in un ensemble dove gli strumenti musicali canonici convivono con quelli della tradizione popolare greca. È proprio in quest'ottica di nuovo recupero della tradizione che si colloca l'invenzione del Sirtaki, reso celeberrimo da Zorba il Greco, il quale a sua volta ha reso celeberrimo Anthony Quinn. Se è vero che il Sirtaki è una creazione ex novo, fatta apposta per il cinema, è anche vero che si ispira all'antica danza Hasapiko e ne somma due versioni in ritmo sempre crescente, dandole quel caratteristico suono ascendente. Ascendente, da questo momento in poi, è anche la popolarità dei nostri due protagonisti. Zorba li ha resi memorabili e ha permesso al mondo intero di accorgersi del loro talento. We'll be right back. Destini incrociati a Creta, più precisamente sulla spiaggia del minuscolo villaggio di Stavros, dove una troupe cinematografica ha allestito il set di Zorba il Greco, film che consacra il talento di due artisti, entrambi focosi e passionali, entrambi d'ora in poi legati indissolubilmente alla magia e alla musica di questi luoghi. Mikis Theodorakis, il compositore, diventa eroe nazionale in qualità di inventore del sirtaki, che da allora è simbolo della cultura e delle tradizioni greche in tutto il mondo. Anthony Quinn, l'attore, ottiene per il ruolo di Zorba la sua quarta nomination all'Oscar, la seconda come attore protagonista. Alla cerimonia dell'Academy Award del 1965, così come era accaduto solo qualche anno prima, in occasione di Selvaggio e il vento, Quinn non ottiene alcun premio. L'Oscar al miglior attore va ancora una volta a un inglese, Rex Harrison, protagonista insieme a Audrey Hepburn di My Fair Lady. Eppure Quinn è l'assoluto vincitore morale della cerimonia. Il successo di pubblico di Zorba il Greco è straordinario, addirittura sproporzionato rispetto all'effettiva qualità del film, inutilmente lungo e statico. Ma le ottime interpretazioni degli attori e la strepitosa colonna sonora lo rendono una pietra miliare nei cuori di milioni di fan greci e non. In tempi più recenti, la spassosa commedia Il mio grosso grasso matrimonio greco gioca nuovamente col ricordo del personaggio interpretato da Quinn. Ehi, ti piacerebbe andare a mangiare greco? Non è il caso. No, senti, conosco un bellissimo posticino, forse lo conosci, Zorba qualcosa. Comunque, mi piacerebbe portarti lì, se tu ne hai voglia. No, non ci voglio andare. Come, perché no? Quel posto... Il danzante Zorba. Il danzante Zorba. La mia famiglia possiede quel ristorante. Sul serio? Adesso mi ricordo. Sei la cameriera. La vitalità, lo humor, lo spirito larger than life di Zorba hanno decisamente fatto scuola. Una bella danza è tutto quello che ci vuole per risolvere le situazioni più o meno intricate della vita. Quando vieni a casa mia io cucino per te. Presto. Potrebbe esserci un problema. Che problema? Sono la migliore cuoca della famiglia, diglielo. Gliel'ho detto, vero? Due volte. Sì, certo. È solo che... Zia, Ian è vegetariano. Lui non mangia carne. Lui non mangia carne? No, lui non mangia carne. Come sarebbe a dire che lui non mangia carne? Oh, non fa niente, non fa niente. Ti faccio l'agnello. Vieni. Venite a mangiare. D'accordo. Ade, Ella, Ella. Oppa! Sì, guarda il ballo greco. La figura di Zorba per Quinn è l'ennesimo esempio di come registi e produttori lo trovino calzante in ruoli esotici e spesso folcloristici. Può darsi che il fenomeno del cosiddetto typecasting, ovvero la forte identificazione di un attore con personaggi e ruoli specifici, solitamente connotati dagli stessi tratti sociali ed etnici, sia moralmente e culturalmente ingiusta. Eppure Quinn è sempre riuscito a donare ai suoi cattivi, ai suoi indiani, o come nel caso di Zorba, ai suoi scapestrati tuttofare greci, quella vitalità e quel fermento che bucano lo schermo e rendono un personaggio davvero irresistibile. Per i fan, pronti a tributargli un affetto incondizionato, e per le innumerevoli signore che hanno incrociato la sua via. Ha stregato moltissime donne a Hollywood e ha continuato a farlo per tutta la sua vita. Tre mogli e 13 figli. Sorvolando sulla certamente numerosa quantità di flirt avuti in oltre 60 anni di carriera a Hollywood. Questi sono i numeri del tombeur de femme Anthony Quinn, forte del suo fascino esotico e fuori dal comune. L'ultima moglie e la sua ex segretaria Katie Benvin, più giovane di 30 anni, lo ricorda così. Lui era sposato quando ci siamo incontrati, ma anche noi ci siamo in un certo senso sposati, proprio lì, in quella prima settimana, spiritualmente ed emotivamente. Io mi sono accorta subito che lui era la persona più importante, l'incontro più inusuale di tutta la mia vita. Ho sempre vissuto con la sensazione che mi mancasse qualcosa. Ho avuto un figlio meraviglioso, sono stata felice, ma quando ho incontrato Tony, ho capito che era lui la parte mancante, quella che cercavo da sempre. Proprio come Alexis Zorba, Anthony Quinn sa stregare le donne di ogni età. Calda. odorosa. Allora io dico a me stesso, Zorba, tu sei in paradiso. L'arte, la recitazione, le donne. Ecco le tre passioni che segnano la vita di Anthony Quinn. And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Se Quinn continua a dedicarsi alle sue passioni, altrettanto fa Mikis Theodorakis. La musica scorre nel suo sangue, così come l'amore per la patria, e con esso il fervore per le questioni politiche. Nel 1967, 3 anni dopo il successo planetario di Zorba, con un colpo di Stato, si instaura ad Atene, in tutta la Grecia, la dittatura dei colonnelli, governo militare anticomunista e fortemente repressivo. Contemporaneamente i militari hanno proibito i capelli lunghi, le minigonne, Sofocle, Tolstoi, Mark Twain, Euripide, spezzare i bicchieri alla russa, Aragon, Trotsky, scioperare, la libertà sindacale, Durkheim, Eschilo, Aristofane, Ionesco, Sartre, Beatles, Albi, Pinter, dire che Socrate era omosessuale, l'ordine degli avvocati, imparare il russo, imparare il bulgaro, la libertà di stampa, l'enciclopedia internazionale, la sociologia, Beckett, Dostoevsky, Chekhov, Gorky e tutti i russi, il chi è, la musica moderna, la musica popolare, la matematica moderna, i movimenti per la pace, la lettera Z che vuol dire è vivo in greco antico. Questo spezzone del film Z, l'orgia del potere, del regista greco Costa Gavras, mostra lo stato di degrado morale e culturale causato dalle restrizioni del regime. La pellicola, girata nel 1969, in piena dittatura dei colonnelli, è un perfetto spaccato della situazione greca dell'epoca, vissuta con sgomento da tutta la popolazione e in particolare dagli intellettuali, tra cui Theodorakis, la cui musica è bandita dal paese. La realizzazione della colonna sonora del film Denuncia di Costa Gavras si colloca nella carriera di Theodorakis come una sorta di imperativo morale. Prima di fuggire e di restare in esilio per qualche anno, Theodorakis lascia la sua amata patria regalandole ancora una volta una delle sue splendide melodie. All'estero non cessa l'attività di Theodorakis come musicista. Lavora anche in Italia, dove collabora con Iva Zanicchi in occasione di un album del 1970, dall'eloquente titolo Caro Theodorakis, Iva. Nemmeno il suo talento come compositore di colonne sonore si placa. Nel 1973 scrive lo score di Serpico, film di Sidney Lumet, con un giovane Al Pacino nei panni di un incorruttibile poliziotto. Tutta la vita ho desiderato fare il poliziotto. Mi pare che non ho mai pensato altro. È incredibile. Ma io mi sento un criminale perché non piglio soldi. Nel 1974, archiviata la dittatura dei colonnelli, Theodorakis torna nella sua amata patria. E sarà proprio la Grecia che di lì a qualche tempo, in occasione di un compleanno dell'ormai ottuagenario musicista, lui ed Anthony Quinn si reincontrano pubblicamente e improvvisano, per la gioia dei presenti, una danza che ricorda quella di Alexis Zorba sui lidi di Creta, inventata insieme 30 anni prima. Ho ballato in onore di un mio grande amico, Mikis Theodorakis. Gli voglio molto bene e so che anche voi amate la sua musica. E voglio... sappiate che la musica di Zorba è la musica della vita. E per vivere pienamente bisogna amare. E io vi amo. La musica di Zorba è la musica della vita. È la melodia che accompagna il ballo scaccia pensieri dei protagonisti del film, ma è anche la colonna sonora delle vite di Quinn e di Theodorakis. La musica delle loro esistenze segnate dalla passione, a volte dalle difficoltà, ma anche dal successo, dalla gloria, dal plauso del pubblico. Non ho mai cercato di rivaleggiare con nessuno. Cerco solo di superare me stesso. Non ho mai preso la morte sul serio, ma nemmeno la vita. E proprio come Zorba, in una sorta di sovrapposizione tra la persona e il personaggio, anche Anthony Quinn non prende se stesso né la realtà troppo sul serio. Casomai, preferisce ballarci sopra.